veramente la storia è qualcosa che sorprende ogni volta, delle particolarità, a volte delle particolarità anche secondo me a tratti sottovalutate. Poi il percorso fondamentale arrivando fino al Medioevo, la caduta dell'Impero Romano con la scissione tra Impero Romano d'Occidente e l'Impero Romano d'Oriente, e sarà quello d'Oriente ad andare avanti, ricordate? Costantinopoli, Bisanzio, poi sarà Istanbul, insomma è tutta questa realtà che è storia vera, non è che sia millantata, viene riportata anche per quanto riguarda qualche motivo di segreto che non è stato poi riportato alla luce per motivi ben precisi, magari ne parleremo, l'Occidente ne è responsabile se vogliamo, ne parleremo col professor Villa, ma parleremo ovviamente anche delle oltre 350 opere, le sculture, i mosaici, gli affreschi, tutti i vasellami, i sigilli, le monete, i manufatti, la ceramica, gli smalti, gli oggetti preziosi, le gemme, l'oreficeria e insomma gli elementi architettonici, tutte le strutture. È una delle esposizioni veramente da tutti i tempi più forbita, più estesa, più completa per quanto riguarda la cultura bizantina. È a Torino fino al 28 agosto 2023. Iniziamo quindi questo percorso con il professor Villa, che ne è anche curatore, tornando in diretta poi con stacchi musicali che presenterò, ovviamente stacchi musicali a tema. A tra poco. Un'esposizione che trova spazio a Torino, è già partita, sarà fino al 28 agosto ovviamente 2023, Palazzo Madama, Museo Civico d'Arte Antica, Sala del Senato, Piazza Castello a Torino. Protagonisti bizantini. Ovviamente da Bologna quando parliamo di bizantini ci viene in mente la vicina Ravenna, ma in questo caso ci spostiamo e con la curatela del professor Villa qua ai nostri microfoni capiremo anche il perché di tutto ciò. Intanto buongiorno professore. Buongiorno a lei gli ascoltatori. Com'è questa realtà che trova spazio a Torino? Quando parliamo di bizantini viene in mente la città di Ravenna. In questo caso invece vi è questo, chiamiamolo, piacevole spostamento. Come mai? Uno spostamento che sembrerebbe del tutto inatteso. In realtà a volte non facciamo mente locale sul fatto che quando l'impero bizantino, quel millennio bizantino, i mille anni di vita, spero più lungo della storia, termina, rimangono ancora i suoi rappresentanti ben presenti nelle dinastie che arriveranno proprio in Piemonte, cioè gli Achei, i principi a Caia, a Pinerolo e a Torino, a Palazzo Madama, e soprattutto ovviamente i paleologi di Casale Monferrato. E quindi potremmo quasi dire che il Piemonte è un Piemonte bizantino, proprio per questo finale di storia. In che epoca siamo, professore? Siamo esattamente nel nostro Rinascimento. Siamo al passaggio tra il 4 e il 500, quando appunto finisce l'impero bizantino e abbiamo ancora questo quasi secolo di vita al di fuori di esso. Ed è un secolo straordinariamente importante, perché se per noi Bisanzio è per appunto quella meraviglia assoluta di Ravenna, sono i grandi miti di Galla Placidia, ad esempio, dobbiamo anche avere la percezione che il nostro Rinascimento deve moltissimo all'impero bizantino. In mostra abbiamo proprio scelto come opera finale la meravigliosa medaglia che Pisanello realizza di Giovanni VII paleologo, quel paleologo che arriva per incontrare il Papa, per tentare di rimettere insieme le chiese, ma soprattutto viene scortato da decine e decine di grandi intellettuali, di grandi sapienti che saranno alla base del nostro Rinascimento. Lo saranno a Ferrara, la Ferrara di Pisanello, lo saranno nella Firenze di Benozzo Gozzoli, la Firenze in cui nella grande cavalcata dei magi di Palazzo Medici Riccardi, Benozzo Gozzoli mette proprio Giovanni Paleologo nelle vesti di un mago, e lo saranno nella capacità di saldare la cultura greca con quella latina, dando vita poi a quella che in fondo è l'unica grande erede di Bisanzio, Costantinopoli ancora in vita, cioè Venezia. saldare la cultura greca con quella che sarà poi la cultura latina, con lo sguardo ovviamente a Oriente e con tanti intellettuali tra i più importanti che in Italia col Rinascimento veneziano nelle arti e le culture saranno poi un naturale sviluppo per quella che sarà una società progressista, o almeno per quanto riguarda gli aspetti artistici. Poi sappiamo bene le situazioni, stiamo parlando di un'epoca di passaggio, quindi caduta dell'Impero Romano, resiste l'Impero Romano d'Oriente, c'è chi prova a fare da collante tra l'archetipo della cultura greca, quello che sarà la cultura latina, e tutto ciò è la storicità bizantina, veramente diffusa, non solo a Ravenna. È chiaro che da Bologna, anche per vicinanza geografica, quando parliamo di bizantini, io spesso Ravenna la chiamo la capitale bizantina. E qui ti si illuminano tante cose. Venezia è una concessione di Ravenna. E non è casuale. Dal territorio donato dall'esarcato di Ravenna è il quartiere di Rio Alto, dove i primi insediamenti della Serenissima, le prime abitazioni riconosciute della Serenissima, guarda caso vi ricorda qualcosa Rio Alto, Rialto. E la musica, questo musicista straordinario, per me è il più bizantino, ho fatto delle corse per recuperarlo, ero fuori Bologna, ho portato per così dire un'ispirazione, ho detto per me il musicista più bizantino del mio mobilone dei CD è il contrabbassista Renaud Garcia Fons. Delizioso questo funk, in effetti è stata illuminante la conversazione con il curatore, il professor Villa, per quanto riguarda questo funky bizantino, che mette insieme la contemporaneità del jazz, l'aspetto mediterraneo, l'aspetto orientale e nello stesso tempo l'impro jazz quanto mai moderno che più conosciamo. Perché quando parliamo di una legge contorta, è scappato detto anche al nostro presidente Alfredo Pasquali per una rassegna stampa, sono stato molto attento, lui sapete il mio faro illuminante per quanto riguarda la politica, anche se a volte abbiamo motivo di disaccordo e ci sta, ci mancherebbe. Quindi per criticare una legge ha detto è una legge bizantina. Per indicare una persona un po' ambigua si diceva è un levantino, viene da così da Oriente, un bizantino. Ma Ma vediamo che caratteristiche evidenzia l'esposizione appunto a Torino per quest'epoca, tra l'altro estesissima e collante, incredibile, collante presente e sotteso tra la cultura latina, la cultura, l'archetipo della cultura greca e lo sviluppo che ci sarà poi in seguito arrivando al Rinascimento. Cosa evidenzia questa esposizione? Quali caratteristiche troviamo evidenziate in questa lettura in mostra a Torino? La mostra di Torino è una mostra del tutto eccezionale perché nasce grazie al MAN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, grazie al professor Marazzi, grazie a uno straordinario accordo tra il Ministero della Cultura italiano e il Ministero della Cultura ellenico. Quasi 300 opere che arrivano da una ventina di musei italiani e oltre 25 musei greci a raccontarci che cosa? A raccontarci non su un asse cronologico la storia di Bisanzio, una storia quanto ormai attuale alla luce della centralità geografica della sua capitale che da Bisanzio diventa Costantinopoli e oggi Istanbul, ma raccontarci come e che cosa è Bisanzio. Bisanzio è un luogo che riesce ad avere mille anni di vita grazie a alcuni assi fondamentali, cioè all'asse dell'imperatore, all'asse della fede e all'asse dell'esercito. D'altronde potremmo dire che Bisanzio è un corpo romano con una mente greca e un'anima orientale, perché è proprio il luogo capace di unire in modo straordinario tutte queste culture. E quindi è l'intersezione totale, si può dire, con la quale arriviamo come radice al nostro contemporaneo, la cultura bizantina. Certamente, certamente sì, anche perché se proprio pensiamo alla centralità strategica che è data dal controllo del Bosforo e dei Dardanelli, da dove transitano e transitavano da oltre 5.000 anni le grandi partite di grano della Russia, dell'Europa centrale, e ha ancora la presenza emotiva, fisica e storica questo impero bizantino per farci capire quanto sia stato importante. E poi è un impero basato, oltre che sui tre pilastri, come dicevamo, di imperatore, chiesa, esercito, ma anche e soprattutto con la sua burocrazia, su una straordinaria capacità diplomatica, perché è solamente con una grande diplomazia che tu riuscirai a vivere mille anni avendo la capacità di conservare alcuni aspetti della classicità greca e romana intrecciandola con gli elementi orientali. In fondo è questa la sua grande proprio lezione. Con una mente greca e un animo orientale. Wow, tanto, eh? E quindi la possibilità di conoscere meglio e non fermarci semplicemente si fa per dire, ovviamente abbiamo dei capolavori assoluti per quanto riguarda la vicina Ravenna, ma darne un approfondimento storico in questo modo è una possibilità, secondo me, da non perdere, almeno per quella che è la lezione che sta portando il professor Villa, che ringrazio qua in frequenza sui 103.1. Arco Lutz, il brano che abbiamo ascoltato in un'interpretazione live di Renaud Garcia Fons, dedicato a Schloss Einau. Poi vi spiegherò in seguito la presenza e la dedica a questo personaggio. Abbiamo, come avete ascoltato, dall'Occidente all'Oriente, nel Mediterraneo, e nello stesso tempo un linguaggio jazz molto molto moderno, e anche per questo che ho voluto portare corpo e anima con questa musica, per darne una colonna sonora, la mostra protagonista di oggi. Ho avuto qualche, ovviamente figuriamoci se non ho qualche motivo personale per avere conversazione in questo caso, e come vi ho detto, come mai che non dico sia, però non dico sottovalutata, ma come mai quando parliamo di bizantini abbiamo sempre questa visione? E appunto questa terza parte di conversazione è orientata su questo. È un'impressione ovviamente anche da magari più distaccato. Come mai pare così sottovalutata? Si parla, no, di altre culture, di diversi percorsi. I bizantini sono sempre un po'... Come mai? I bizantini hanno avuto in realtà una, potremmo dire, sfortuna critica molto importante, cioè se ancora nel 1600 si aveva la percezione che era stato l'impero bizantino a bloccare sostanzialmente la risalita della cultura araba islamica da Oriente verso Occidente, il Settecento illuminista, che sposterà i suoi assi di sapere verso altri temi, andrà sostanzialmente a cancellare questa esperienza, perché l'eredità del periodo post-cristiano sarà un patrimonio di idee filosofiche, giuridiche, amministrative, che devono diventare la base per il progresso nel presente. Quindi è allora che la parola bizantino diventa il sinonimo di tutto quello che i nuovi tempi del Settecento vogliono abbattere, quindi questi poteri sovranazionali che opprimono la libertà dei popoli, il sistema statale che giustifica, potremmo dire, l'oppressione individuale e culturale in nome di una religiosità opprimente, una religiosità che è fatta ormai solo di esteriorità, rappresentato una casta sacerdotale saldata alle classi dominanti, delle procedure amministrative antiquate, immutabili, dei comportamenti, potremmo dire, falsi, che nascondono un cinismo morale e assecondano compromessi e corruttela. Allora, tutto questo era la lettura settecentesca, che paradossalmente è rimasta potentemente nel nostro immaginario, e solo oggi abbiamo in fondo la serenità di comprendere nuovamente quanto questo impero bizantino sia stato proprio la prosecuzione fisiologica dell'impero romano, tanto che i bizantini si chiamavano proprio Romei, prendendo alla lettera la dicitura greca, e soprattutto abbiamo la percezione di quanto questo luogo abbia avuto la capacità ormai 7 secoli fa di mettere per la prima volta insieme Oriente e Occidente in modo non solo simbolico ma straordinariamente pacifico. utilizzati dopo che l'impero romano sopravvive nella parte orientale, prima utilizzati per fermare un'ulteriore espansione, in seguito poi quella ottomana, e poi messi da parte definitivamente per questa intersezione. E ricorda qualcosa storicamente anche quello che viviamo ai giorni nostri, e poi messi da parte con una motivazione in quanto troppo spirituali, troppo legati a una burocrazia che poi burocrazia non era, è una diplomazia, dove erano veramente dei geni, definiti dei bizantini, coloro che erano un po' controversi, un po' arzigogolati, no? E probabilmente l'arte ne rappresenta perfettamente queste caratteristiche. Però tante sono le attinenze anche con il contemporaneo. Come vi ho detto, la storia ci lascia delle tracce, dei messaggi molto, molto chiari. Romani, si sentivano di corpo romano, tanto più che si chiamavano Romei. Ho parlato di Ravenna e di Venezia e di questo passaggio. Come si chiama la strada che unisce Ravenna e Venezia? Romea. Che fanchettone che è questo. Certo, grazie per la precisazione. Sì, come abbiamo detto in precedenza anche con il professor Villa, il termine bizantino è stato utilizzato come sinonimo di intrigo politico, sotterfugio vario, intrallazzi e tradimento, scrive il tranviere bolognese. Sì, confermo, ma era veramente così? O era semplicemente una grande capacità diplomatica? E la diplomazia mette insieme a volte anche questa retorica nel senso di dialogo, perché mettere insieme Oriente, Occidente con una cultura greca, un corpo romano e un'anima di sguardo orientale è mica facile, quindi ci vuole questa capacità. Poi chiaramente quando l'hanno voluta mettere un pochettino da parte hanno dato questa definizione di bizantino come è uno che fa degli intrighi, è uno che trama. Anche al cambio di tanti imperatori, prosegue il nostro dialogo a distanza al 333-180-9494. Ah, indubbiamente, probabile. E quindi l'intrigo di palazzo. Lasciamo sfumare questo brano tratto dal disco Navigatore di Renaud Garcia Fons con un ospite alla fisarmonica, un genio che è Jean-Louis Matinier. Abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando, lo portiamo ancora per un minuto alla conclusione dal disco Navigatore per la Enya Record, uno dei dischi di Renaud Garcia Fons, qui in collaborazione alla fisarmonica Jean-Louis Matinier. Quindi lo stacco con gli spot e poi si torna in diretta, perché abbiamo fatto tante chiacchiere, abbiamo ascoltato tanta musica, ma è il momento anche di entrare ufficialmente all'interno della sede espositiva Palazzo Madama al Museo Civico d'Arte Antica nella Sala del Senato in Piazza Castello a Torino, e sarà fino al 28 agosto 2023. Il titolo della mostra, ovviamente, Bizantini. A tra poco. concludiamo anche la selezione dedicata a Renaud Garcia Fons. Per chi non lo conosceva, sappiate che è un contrabbassista, violoncellista, un musicista di una classe, di un'originalità e motivo di ricerca veramente molto talentuoso. E parliamo di mare, mio amato mare. E infatti questo disco per Renaud Garcia Fons è Méditerranée. Poi arriva Sergio Fanti e scrive: intanto buongiorno Sergio e grazie. Insomma, uno in spiaggia deve cantare. Mi sono innamorato di Marina, una spiaggetta bella, ma di Roma. Perché Marina Romea significa questo allora? Significa questo, ma è molto molto recente, come ben sapete. Marina Romea è la perla della Riviera Romagnola e non solo, è una località di mare bellissima, con origini e sviluppi quanto mai contraddittorie. Marina Romea e i suoi abitanti, ad esempio, quando portavo tanto entusiasmo, mi fermavano. Certo, ti piace, certo, lo sappiamo bene, è una perla assoluta, ma sai, se poi lo sanno in troppi, ecco, questo per dirvi, Comunque Marina Romea è di una bellezza fra natura, spiaggia, architettura, in quanto moderna, ma quanto mai bizantina. Perché bizantina? Beh, ve lo spiego. Perché l'aspetto controverso di Marina Romea è presente anche nell'architettura della stessa piccola località. Nasce alla fine degli anni 50. Si vuole costruire una strada più vicino al mare che colleghi i lidi nord ravennati. Due allora, cioè ovviamente vicino al Candiano Porto Corsini e vicino al confine ferrarese Casal Borsetti. È un tratto sulla Romea molto esteso. Perché vicino al mare non costruiamo una strada parallela più esterna, ovviamente più piccola, ma che sia unicamente per i tre lidi nord della provincia di Ravenna? Ok, facciamolo. Del comune di Ravenna poi, perché Ravenna è il secondo comune più esteso d'Italia dopo Roma. È enorme, è grandissimo il comune di Ravenna. Ok, a metà strada allora iniziamo in mezzo a questa meravigliosa pineta e si cominciano i lavori da metà, ovviamente, per raggiungere le due località, Porto Corsini e Casal Borsetti. Gli imprenditori sono di origine della provincia della Ravenna di cui vi ho parlato, quindi di Fusignano, di Lugo, di Alfonsine. E ovviamente un'epoca d'oro, e questo progetto inizia a richiamare attenzione e investimenti. Creano quindi questo deposito a metà strada tra le due località, che prende sempre più spazio, fino a che qualcuno dice: ma già che ci sono, visto che sto costruendo una strada qui, sai cosa faccio? Mi costruisco la villa. E magari l'imprenditore che si occupa di altri aspetti in questa costruzione dice: ma sai che hai avuto una grande idea, ne costruisco una anch'io. E via così, un altro e un altro ancora. E ognuno in totale libertà. L'architettura Marina Romea di queste ville è quanto mai originale, è quanto mai personale, soprattutto nella parte più centrale. Dopo, ovviamente, le famose casette a schiera per motivi turistico-commerciali sono diventate più che abbondanti e presenti. Però nella parte centrale ci sono queste ville che possono assomigliare a un pueblo messicano, possono avere un ingresso tipo tempio dorico, con totale assoluta fantasia, un po' controversa se vogliamo, un po' un purpurri di stili. Però la passeggiata per via delle palme per vedere queste strane ville, alcune futuriste, alcune assolutamente improbabili, altre stilisticamente perfette, altre classiche, neoclassiche, alcune esotiche, è veramente motivo assolutamente interessante di sguardo moderno architettonico di insieme. Romea, perché è nata da un sondaggio fra di loro, c'erano diverse possibilità e siccome nasce su una piccolissima Romea più vicina al mare ha avuto la meglio quel nome. Non c'è un'antica tradizione per il nome di Marina Romea, c'è appunto c'è questo sondaggio che ha portato, ok, la chiamiamo Marina Romea. Che fare con la mostra che stiamo presentando, non si direbbe, ma siamo a Ravenna, parliamo di bizantini in maniera estesa, motivo di approfondimento non solo di grande esplosione come possiamo vedere nei monumenti meravigliosi della città di Ravenna, ma culturalmente, socialmente, politicamente, una storicità estesa, una storicità con corpo romano, con il cuore e la cultura greca e l'anima ad Oriente, e quindi nei percorsi storici quello che ha vissuto e le testimonianze artistiche arrivate fino ai giorni nostri. Con il professor Villa ne stiamo facendo prima una descrizione storica, ora direi che è il momento di entrare in mostra. Entriamo in mostra, una mostra ricca, con che percorso e con che suddivisione in sezioni? Allora, la mostra, come dicevo inizialmente, ha una scansione legata ai grandi temi. Abbiamo voluto cominciare la mostra con tre immagini simboliche, quelle dell'imperatore e quella di un'eredità greca e un'eredità invece romana, per far capire come questo impero contenesse, avesse in sé tutto il Mediterraneo, e poi scivoliamo dentro al mondo dell'esercito, al mondo della quotidianità, e quindi abbiamo straordinari gioielli, grandi ritratti delle aristocratiche famiglie bizantine, per poi però percepirne tutta la straordinaria forza di commercio e quindi i grandi materiali che venivano commercializzati, ma anche la grandiosità di Costantinopoli. Grazie alle università turche si è riuscito a fare una ricostruzione della Costantinopoli del 1200 tridimensionale, ridando vita a quei luoghi e ai grandi edifici che ne hanno costruito il mito. Dopodiché si arriva in tutta la fase religiosa, concludendo proprio con l'interno della chiesa, perché tanto l'esterno delle chiese bizantine è semplice, perché all'esterno la religione deve essere pura e incorrotta, e pensiamo proprio alle architetture bizantine, un luogo straordinario come il mausoleo di Galla Placidia, che dall'esterno ci appare una croce greca sostanzialmente realizzata con il semplice laterizio, entrando all'interno che è la meraviglia assoluta, perché abbiamo tutto lo splendore dei mosaici policromi, abbiamo lo splendore degli avori, degli ossi, abbiamo lo splendore degli argenti, delle prime grandi icone, cioè c'è la massima espressione di una cultura capace proprio di saldare anche i mondi artigianali d'Oriente ed Occidente. Metà la playlist, un po' dedicata a Renaud Garcia Fans, che poi ha preso il sopravvento, e un'altra dedicata alla Label Bleu. Una label quanto mai bizantina, ma da tanti posti diversi, insomma, in questo caso il linguaggio yiddish è il klezmer di un immenso clarinettista di David Krakauer. a tema funky, se vogliamo. Questo addirittura è un brano remixato per Label Bleu, Klezmer alla Bechet. Di divario storico, e allora la Torre degli Asinelli più o meno, sto andando a braccio, è 1110 mi pare, adesso poi guarderò bene, mi prenderò gli insulti del... La Basilica di San Vitale a Ravenna è 560, ecco, quindi c'è un pochettino di divario storico. Torna all'anno 1000, a Bologna si costruiva la Torre degli Asinelli, a Ravenna i bizantini costruivano la Basilica di San Vitale, scrive il tranviere bolognese, che ringrazio tantissimo, che continua a dare motivo di co-conduzione per questa esposizione, secondo me di ampio respiro, mondiale, una mostra veramente molto molto completa, esaustiva e particolare, che aggiunge costantemente il dialogo storico dal percorso fino ai giorni nostri, con tante. E allora, in questo lasso di tempo, quindi stiamo parlando del 950, guarderò meglio, fino all'inizio del 1000, poi 1100 per quanto riguarda la costruzione della Torre degli Asinelli, è un bel cambiamento, cioè è uno stacco incredibile, c'è veramente qualcosa che dà una continuità, se vogliamo, ma c'è uno stacco culturale incredibile, caduta dell'Impero Romano, inizio delle signorie. Chi erano gli artisti bizantini? Gli artisti bizantini è una bellissima domanda, perché queste mostre archeologiche in realtà sono mostre in cui molto dobbiamo ricostruire con la nostra immaginazione. Oggi questo c'è appunto supportato dalle ricostruzioni tridimensionali, ma soprattutto sono rimasti pochi nomi, perché in fondo i grandissimi artisti, i grandi artifex, non avevano bisogno di firmarsi per lasciarci le loro opere. In mostra abbiamo ad esempio uno straordinario bracciale trapezoidale, tutto trapuntato, potremmo dire, di pietre preziose e in oro, un gioiello che ha anche un elemento ulteriore, cioè questi meravigliosi smalti cloisonné che noi leghiamo alla cultura francese medievale. In realtà è un oggetto che nasce a Costantinopoli, nasce nel IX secolo, quindi nell'Ottocento, ben prima della fortuna francese, ma è un oggetto senza un nome, cioè non sappiamo chi abbia compiuto quel miracolo straordinario, come non abbiamo i nomi di grandi architetti o dei grandi mosaicisti. Quindi ci rimangono capolavori assoluti di cui possiamo godere della bellezza, sapendo che in fondo il nome e la paternità è qualcosa che interessa e incuriosisce più la nostra contemporaneità, centrata proprio sulla forza, diciamo così, del nome e la necessità di dover quantificare e qualificare tutto rispetto a una cultura che invece badava una qualità dell'artigianato, quell'artigianato che proprio rimane una delle sue grandi eredità. Certo, comprendo. E in conclusione, collaborazioni e provenienza delle opere? Come dicevo appunto, la mostra è una straordinaria iniziativa del Ministero della Cultura italiano e del Ministero della Cultura ellenica. Le opere arrivano da Tere, ma arrivano anche da isole come Naxos, isole che per noi sono legate a luoghi di vacanza, ma che in realtà hanno all'interno dei capolavori assoluti. E tra le varie opere mi piace ricordarne una che è quasi commovente, ed è un tavolo polilobato a forma di ferro di cavallo che arriva dei grandi monasteri greci e che ci ricorda con la sua forma come tanti modelli bizantini siano poi germinati negli immaginari medievali, perché da questo tavolo polilobato nasce in fondo il concetto della tavola rotonda di Re Artù e di tutto quello che sarà la rielaborazione medievale della grande Bisanzio. Avremo tempo fino al 28 agosto 2023. Bizantini, luoghi, simboli e comunità di un impero millenario, a Palazzo Madama, Museo Civico d'Arte Antica, Sala del Senato, in Piazza Castello a Torino. Io, professor Villa, la ringrazio tantissimo e non lasciamo passare troppo tempo per la prossima conversazione. Grazie. Grazie Filipe, arrivederci. Trombettista John Hassell, concludiamo la nostra rubrica in mostra di quest'oggi. Grazie al professor Villa che ha citato anche alcune isole greche per quanto riguarda le vacanze che ormai sono un ricordo in questi splendidi arcipelaghi dove veramente non solo le spiagge ma si può unire una ricerca culturale incredibile, dall'isola di Kalymnos, da tutto il Dodecaneso, da Karpathos, Lipsi, Leros, Samos, isole di una bellezza ovviamente con respiro culturale meraviglioso. Ok, è terminato, non vi tedio più. Grazie per chi ha resistito all'ascolto, grazie di cuore al Tranviere Bolognese, grazie di cuore a Sergio, grazie a tutte e a tutti. L'appuntamento è a domani per concludere la settimana insieme e avere tre incontri in scena. Io vi auguro un buon ascolto sulle nostre frequenze, a breve lo stacco pubblicitario, dopodiché Liberi Dentro e poi rassegna stampa. L'appuntamento è a domani alle ore 7. Un caloroso abbraccio e una buona giornata di giovedì 6 luglio dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.